penso che abbia superato le 2000 persone e sono qui, sono dietro lo striscione dei compagni e delle compagne del movimento di lotta per la casa, il coordinamento e i blocchi precari metropolitani. Volevo che ci spiegasse uno dei compagni il collegamento tra le lotte per il diritto alla casa e la lotta no TAV, con soprattutto con gli ultimi aggiornamenti, oltre che una piccola ricostruzione storica degli ultimi mesi. E buonasera a tutti e a tutti. Ciao. Risentite? Sì, risentiamo, vai. Ok. Oggi come altre volte, insomma, siamo scesi in piazza a fianco del movimento no TAV, col quale ci sentiamo assolutamente fratelli, nel senso che ci sono tanti punti in comune, l'essere un movimento cosiddetto popolare, insomma, quindi composto da migliaia di persone e soprattutto con persone eterogenee che hanno diverse esperienze di vita e diverse esperienze di lotta. Ci accomuna anche una critica forte a quella che sono le spese, i soldi che dicono non esserci e come essi vengono spesi. Quando leggiamo che ci sono 12 miliardi, se non di più, di euro spesi per il treno ad alta velocità, sia in Valsusa, sia nel terzo valico in Liguria, sappiamo che quelli sono soldi che vengono investiti in questo e non vengono investiti scientificamente. Non è che è una cosa di disattenzione perché si pensa che un'opera pubblica di quel tipo è più importante. Scientificamente vengono investiti in quello e non in opere, come dire, pubbliche di più rilievo, come ad esempio la costruzione, ma anche il comprare quelli che sono i palazzi sfitti, insomma l'edilizia popolare di cui la città come Roma, ma tutte le città italiane, hanno un enorme bisogno. Ci condividiamo quindi con loro la critica a come vengono gestiti i fondi in questo paese, insomma pensiamo che ci siano opere ben più utili, ben più importanti in questo paese da costruire con quei soldi rispetto a un'opera dannosa e inutile come il TAV. Basti vedere anche solo esclusivamente quello che è successo quando l'Italia è stata oggetto di un po' di piogge che è venuto giù un mezzo paese, insomma Genova Orti, a Carrara idem, con una diga costruita pochi giorni prima. Nel senso, è chiaro che questo è un paese che va in qualche modo ricostruito, ma sicuramente partendo dal fatto che i soldi sono limitati, quei soldi che ci sono andrebbero in questo tipo di opere qua. Per il resto noi siamo qua in corteo con una sorta di delegazione, diciamo, non siamo scesi in una forma di massa come al solito, perché come sapete occupiamo l'anagrafe da ormai 5 giorni e continuiamo a farlo anche adesso. Aspettate, mi sposto però perché non riesco a capire bene cosa sto dicendo e mi stanno facendo i cori dietro. Certo. E eccomi. Occupiamo la NASA per me da 5 giorni in quello che è un po', come dire, il nostro ultimatum al piano casa del governo Renzi e in particolar modo del ministro Lupi. Vogliamo, e da questo sappiamo che altre città si stanno per muovere, vogliamo che venga abrogato definitivamente l'articolo 5, ma che venga abrogato l'articolo 3 e l'articolo 4 che fanno la fine delle case popolari e tutto il piano casa per intero, che fondamentalmente è il solito attacco ai poveri, il solito regalare soldi a palazzinari, a speculatori e regalare fondi pubblici a Expo. Quindi ci troviamo ancora in occupazione lì, abbiamo avuto diverse interlocuzioni, tutte fallite comunque dal nostro punto di vista, che è solo ed esclusivamente quello di abrogare quella legge e di portare così a compimento finalmente quello che diciamo da tempo. In Italia, come dicevo prima, si stanno muovendo altre realtà sulla casa in questo tema, dalla prossima settimana ci aspettiamo occupazione dell'anagrafe di Milari o cose del genere, azioni comunque che vadano in quella direzione e quindi staremo a vedere, insomma. Va benissimo. Senti, ci sono degli appuntamenti, ci sono degli appuntamenti pubblici per quanto riguarda, insomma, il coordinamento di lotta per la casa e quant'altro nelle prossime settimane? Appuntamenti pubblici veri e propri. Pensate che c'è un po' un affitto. Anzi, non vi ho sentito bene la domanda. Comunque gli appuntamenti pubblici dovrebbero essere quelli. L'appuntamento pubblico è l'occupazione dell'anagrafe, fondamentalmente. In questo momento non abbiamo ancora lanciato appuntamenti veri e propri, c'è l'occupazione dell'anagrafe, chi vuole passare a dare il suo contributo, il suo sostegno a quel tipo di occupazione là è sempre ben accetto. Il nostro primo appuntamento pubblico importante chiaramente è quello del 31 gennaio, questo corteo che vogliamo far partire la piramide, su queste questioni, sulle questioni della casa e più genericamente sulle questioni che sta vivendo la città di Roma più in particolar modo che sta vivendo dopo la situazione di Mafia Capitale. Abbiamo anche iniziato a costruire pubblicamente, già dall'Assemblea in Campidoglio, quella che vuole essere la opposizione il 28 febbraio al corteo di Salvini e della Lega a Roma, quindi su quello è un'altra sfida cui vorremmo partecipare insieme a tutti i compagni e le compagne di questa città, insomma. Va benissimo, perfetto. Intanto ringraziamo, magari se mi ripassi il compagno redattore. Grazie. Ciao. Una cosa, scusa. Senti, allora volevo chiedere al compagno un'altra cosa sulla questione. È sembrato che alcune amministrazioni cittadine preoccupate degli esiti sociali della mancata proroga del blocco degli sfratti abbiano appunto visto nel governo più un avversario che un partner, secondo, in base agli incontri che avete avuto con gli amministratori di Roma in particolare, questa tematica è venuta fuori oppure no? Sì, allora è chiaro che dal punto di vista di chi governa le città è molto difficile rendersi conto di quella che è un'emergenza sociale come la questione degli sfratti rispetto a chi siede in Parlamento o al governo, dove ha una visione evidente molto più fredda della realtà. Le interruzioni sono state sempre le stesse in realtà, nel senso che loro ci dicono che hanno portato al ministro Lupi gli assessori alla casa del comune di Milano, Napoli e Roma in un incontro a Lanci il tema degli sfratti, ma il ministro Lupi ha risposto picche fondamentalmente, nel senso dice che la proroga non sarebbe accettabile in questo momento perché andrebbe a prorogare un problema che invece va affrontato e che loro per la casa hanno già stanziato diversi milioni di euro, cosa ovviamente falsa perché l'hanno stanziati per l'housing sociale, l'hanno stanziati, come abbiamo visto e come leggiamo dal piano casa, per i soliti andando soltanto a frutto di chi poi effettivamente ci specula sulle abitazioni e sul cemento. Quindi noi sicuramente riteniamo positiva quella che è un tentativo interlocutorio da parte di chi gestisce le città, ma è chiaramente una mossa insufficiente, insomma, nel senso non ha portato nessun tipo di risultato, non ha prorogato gli sfratti e di conseguenza le amministrazioni cittadine di Roma, Napoli e Milano riteniamo quantomeno conniventi con questa situazione, perché mandare avanti solo ed esclusivamente un assessore senza che la giunta, senza che il comune intero prenda posizione su questo, mi sembra una mossa alquanto insufficiente e che effettivamente non ha portato a nulla, sta portando forse molto di più quella che è un'occupazione dal basso sociale dell'anagrafe, quantomeno nelle intenzioni, quantomeno in quello che possiamo leggere, piuttosto che una sterile e flebile polemica che ha montato l'assessora Danese e i suoi colleghi di Milano e Napoli. E per concludere questo discorso, io vorrei ricordare che qualche anno fa in un municipio di Roma ci fu un presidente di municipio che arrivò a requisire alcune case, quindi in realtà, siccome i poteri dei sindaci sono anche in caso di emergenza sociale di requisire le case sfitte, loro lo potrebbero fare, però mi sembra che nei vostri colloqui, quando ci sono stati gli incontri, sta cosa non è stata neanche accennata, giusto? No, assolutamente non è mai stata accennata, se viene accennata viene vista così in maniera molto vaga. Certo, noi pensiamo che oltre agli appartamenti sfitti, che proprio Roma è una città strapiena di palazzi vuoti, abbandonati, che siano essi messi a disposizione, cioè costruiti per fare effettivamente delle abitazioni, o che siano uffici di enti, palazzi pubblici abbandonati e vuoti, o anche privati lasciati vuoti alla speculazione. Non c'è mai stata né da parte di questo comune, di questa giunta che governa la città, né dalle giunte precedenti, ma insomma Alemanno c'era anche abbastanza chiaro aspettarselo, visto anche poi quanto era implicato nell'emergenzialità, nel racket, diciamo così, dell'emergenzialità. Ma anche da Marino evidentemente non vediamo differenze in questo, ci sembra che, come dire, non, da questo punto di vista non c'è mai stato nessun tipo di interesse da parte del comune, se viene sempre dopo l'occupazione dello stabile con delle emergenze specifiche su quello, insomma, non da parte del comune, che invece continua a ritenere, e anzi le mosse vanno in quella direzione, vediamo Caserma Sani sul Flaminio, insomma sono tutte mosse che vanno a rivendere il patrimonio pubblico ai privati, che ci costruiscono appartamenti di lusso, centri commerciali e via discorrendo, che sicuramente servono a poco al sociale, a chi effettivamente soffre la crisi e soffre soprattutto la crisi abitativa. Va bene, ti ringraziamo molto del quadro definito, ricordiamo ancora che c'è in corso questa occupazione dell'anagrafe, quindi come chiedeva il compagno prima, chi potesse, chi volesse, insomma, può anche fare un salto da quelle parti. se non avete domande possiamo chiudere qui, okay. Per ora ci sentiamo più tardi. Va benissimo, perfetto, intanto grazie mille, a dopo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ok.